midi. Donc une après-midi, comment se baisser devant sa commande? 100. Allora, torno sul punto. Bisognerebbe che ci fosse più silenzio, anche da parte loro. No, non è possibile, è proprio completamente da cielo. Dunque, ci sono due, le due donne quindi ormai si sono profilate, manca una terza donna. Manca una terza donna assai meno importante, ma che possiamo già cominciare a definire, si chiama Madame d'Ambreuse, e notate questa squisitezza, il D naturalmente, chiudete un po' il telefonino di qualcuno, avete il telefonino acceso, per favore. C'è qualcuno che ce l'ha? No? No. Tagli un dito, se ce l'avete. Dunque, Madame d'Ambreuse, il D naturalmente, che cosa, quale condizione sociale vi fa pensare che siano? Nobili. Ed erano nobili, solo che è arrivata la rivoluzione, questa è una delle cose splendide, per cui per esempio nel 1943, dopo l'8 settembre, sapete, tutti quelli che erano fascisti, immediatamente, i fascisti, ma per carità, io non conosco assolutamente niente, eccetera. Questa è una delle condizioni d'Italia, io mi sto aspettando ancora, spero di vivere sufficientemente per vedere il dopo Berlusconi, quello che succede dopo il dopo Berlusconi. Me lo sto assaporando proprio, con una gioia feroce. Morti li voglio vedere, morti. Non so se il mio pensiero è chiaro. E quindi dopo, quando un regime cambia, tutti fanno volta che fanno. Quindi i D'Ambreuse, diventati, venuta fuori la rivoluzione, eccetera, avevano creduto opportuno di chiamarsi D'Ambreuse senza l'apostrofo, in modo tale da tacere le loro origini aristocratiche. Non si sa mai. Non si sa mai. E la D'Ambreuse è un terzo tipo di donna. Noi non ne parliamo ancora oggi se non casualmente, ma intanto voglio introdurvi la figura. È un terzo tipo di donna ricca, anzitutto. Ricca, bella. Bella, âgée, questo è il punto, di una certa età, ma insomma ancora assolutamente appetibile, questo va da sé, insomma, e che a un certo punto si troverà senza il marito muore, quindi lei diventa una vedova ricca, e c'è il giovane Frédéric Moreau, che è carino, che è povero, ma insomma Frédéric vede in lei una possibilità di contatto. D'altra parte, quando si rimane nella vita soli, uno cerca come che sia i contatti. Amore non si può certo usare questa parola, amore, insomma. Ecco. Direi che poi una lezione che noi abbiamo da questo meraviglioso libro, che è l'educazione sentimentale, è proprio questa, insomma, è una frase che potrebbe usare quel tizio, come si chiama, quello scarparo, quel robino. Come si chiama? Federico Moccia. Moccia. Ecco. Diamo un titolo alla Moccia, insomma. La difficoltà di usare la parola amore. Ecco. La difficoltà di usare la parola amore. E questo è quello che noi capiamo. Cioè, non c'è semplicemente l'amore per Madame Moreau. E la Madame, che vuole? Lei avete capito? Arnaud, Madame Arnaud, l'amore per Rosanette, la convivenza furbesca con l'altra, con la D'Ambreuse. No, è che il nostro cuore, avrebbe detto Manzoni, insomma, lo diamo a pezzettini, ora qui, ora là. Quindi sostanzialmente, e questo è il messaggio sottile che Flaubert, quindi sostanzialmente nulla è serio nella vita. Nulla è serio nella vita. Ecco, questa è una cosa che si dice abbastanza poco spesso di Flaubert e che invece è molto importante. Come vi ho detto qualche volta, è un po' il racconto dell'uomo moderno. È l'uomo relativo. È l'uomo relativo. E più volte vi ho citato Sua Santità Benedetto XVI, che quindi avrebbe inuncia diciamo così, un tipo alla Frédéric Moreau, che io amo moltissimo, per cui lo rinuncio al Papa. Perché il Papa non, direi programmaticamente, non vuol capire l'uomo moderno. L'uomo moderno, se vogliamo, ha poco fascino, perché è vile, indistinto, senza valori, è pragmatico, nevrotico. Direi queste cose, ai tempi di Flaubert, la nevrosi non si conosceva ancora con questo termine, tutte le notizie che abbiamo avuto dopo con la psicanalisi, ma mi pare proprio che cos'è lui, Frédéric? È sostanzialmente un depresso. È un depresso, un nevrotico, uno che non ha chiuso i conti con il proprio passato minimamente. Uno, poi soprattutto, che non sa quello che vuole. Questa espressione, non sa quello che vuole, mi suscita un senso sempre un po' di tenerezza, non perché io non sappia quello che voglio, anzi io l'ho saputo nella vita, forse anche troppo bene quello che volevo, insomma. Ecco, però quando è tipico di giovani, che non per questo sono assolutamente sciocchi, tutt'altro, anzi, che rogati sentenziano sul loro, rogati sentenziano è un'espressione latina, vuol dire interrogati sul loro parere. A una certa età, la vostra età, eccetera, ma lei in che cosa si vuole laureare? Quindi dei sorrisi un po' ebeti, ma non so, sono al secondo anno, così, hanno fatto magari un esame e mezzo, ma non so, e poi arrivando ancora avanti non sanno niente della loro vita, ma una delle caratteristiche poi di questa gioventù infelice che è quella che se tu chiedi rimangono sempre in una sorta di tiepido buon senso, se chiedi di scomporsi, insomma forse solo sulla Roma e la Lazio riescono ad avere delle opinioni nette, ma se fosse possibile tra la Roma e la Lazio scegliere il latina, poniamo, come via di mezzo lo sceglierebbero, perché? Perché la vita offre poco, la vita, diciamo la verità, offre poco, alla vostra età vi offre poco, in termini di sesso, poco, sesso insomma. Voglio dire, dopo un po' uno si rende conto, non so, lei mi sta guardando invece con un'aria come se invece fosse completamente appagata. È appagata, che bello, guardate che ragazza, sempre una ragazza appagata. Ma insomma, in termini di sentimenti, in termini di sesso, in termini di soldi, in termini di lavori soddisfacenti, ecco perché questo libro L'educazione potrebbe essere una Bibbia dei nostri giorni, una Bibbia dei nostri giorni, da spedire al Vaticano. Sempre torno su questo pensiero rabbiosamente, come d'altra parte io ho il compito di dire le mie idee, sono qua per dire le mie idee, sono pagato per dire le mie idee. Qualcosa ormai avete capito, del mio filo berlusconismo avete capito. Lo spirito papalino avete anche capito. Allora, quindi state attenti, concludo questo preambolo, state attenti, non dire Madame Arnoux rappresenta la donna amata che però lui non riesce a concludersi nulla, l'altra, no, è che noi ci spezzettiamo nella vita, l'uomo moderno è uno che si spezzetta, ricordate un tizio che si chiamava Omero, aveva fatto qualcosa che si chiamava l'Iliade dell'Odissea, forse il nome di Achille e Patroclo vi dicono qualcosa, gli amici. Il mondo vero non è fatto di Achilli e Patrocli, cioè di amici a tutto tondo. Gli amici non sono a tutto tondo. Uno è un po' simpatico e un po' stronzo, questo è il punto sostanziale. Uno è un po' fedele e un po' no. E noi andiamo avanti con questo senso di irresolutezza abbastanza drammatica, finché a un certo momento vediamo tutto quello che è successo e diciamo, ma Madonna, ma tutto questo è successo a me. E la frase che io ripeto sempre, meravigliosa, di Chekhov, alla fine, l'ho detta mille volte, alla fine del Giardino dei Ciliegi, che è una delle più belle commedie mai scritte, ve l'ho detta mai? Sì, l'ho detta sicuramente. Comunque, quando il vecchio servo se ne va via, la casa è stata venduta, chi non avesse letto il Giardino dei Ciliegi, lei doveva esprimersi con un tono di voce molto più basso, anche azzerarlo. Ma non dovete parlare, dovete fare programmaticamente lo sforzo di non parlare, per qualunque motivo, anche se le viene un attacco di appendicite, sono chiaro? Ha capito? Se le pestano i coglioni, devi star questa forse è un po' grossa, scusate, è un po' dura la cosa, ma tra ragazze stavo dicendo, il vecchio servo rimane nella casa e dice a 90 anni e dice: si sono dimenticati di me, sono di tutti via, la vita è passata ed è come se non avessi vissuto. Ecco, questa frase meravigliosa è una frase che potrebbe dire Frédéric Moreau: la vita è passata ed è come se non avessi vissuto. Guardate che quando il romanzo finisce, Frédéric non è affatto un vecchio, è un uomo che oggi definiremmo giovane, sui 45 anni, però è molto più che un vecchio, la vita ormai è finita, perché non è vero che la vita finisca a 80 anni, la vita può finire a 30. Io ho conosciuto donne che avevano dissipato il loro cuore nell'amore, poi quest'uomo non c'era più e a 30 anni erano vecchie. Ho conosciuto anche anziani che erano ancora in buona salute, ma sostanzialmente non è che tutta la vita, tutti gli anni a nostra disposizione possono essere vissuti con uguale intensità, evidentemente. Bene, e adesso arriviamo al nostro punto. Arrivando al nostro punto, che dice così. Dunque, siamo sempre con Rosanet. Dunque, detta la marescialla, come sapete, dalla famosa festa in cui la incontrava. Dunque, un pomeriggio, siccome lei si stava abbassando, si stava chinando davanti al comò, lui si avvicinò a lei ed ebbe un gesto d'un'eloquenza così poco ambigua che lei si rabbrezzò tutta rossa. Ricominciò lui subito e allora lei scoppiò a piangere dicendo che era ben disgraziata e che questa però non era una ragione perché la si disprezzasse. Lui reiterò i suoi tentativi e lei allora assunse un'altra tecnica che fu quella di ridere sempre. Lui credette dal canto suo divertente rispondere nello stesso tono ed esagerandolo, ma si mostrava troppo allegro perché lei lo credesse sincero e il loro spirito di cameratesco faceva ostacolo all'effusione di un'emozione davvero seria. Infine, un giorno, lei rispose che non accettava i resti di un'altra. Chi altra? Eh sì, ma vai dalla tua Madame Arnoux, perché Frédéric ne parlava sovente, e Arnoux dal suo canto aveva la stessa mania, ed egli si impazientiva alla fine di sentire sempre vantare quella donna, e la sua battuta era una specie di vendetta. Frédéric gliene serbò rancore. D'altronde, ella cominciava a irritarlo fortemente, qualche volta, posando da donna vissuta, diceva male dell'amore con un riso scettico che dava voglia di schiaffeggiarla. Un quarto d'ora dopo, era la sola cosa che ci fosse al mondo, e incrociando le braccia sul petto, come per stringere qualcuno, mormorava: oh sì, e va bene, buono, è buono. Le palpebre semichiuse e quasi semisvenuta dall'ebbrezza. Era impossibile conoscerla, sapere per esempio se amava Arnoux, perché sì, beffava di lui sembrando gelosa. E era la stessa cosa per la Vatnas. Vatnas era un'altra del giro di Arnoux, insomma, un'altra donna, che chiamava una miserabile, a volte invece la sua migliore amica. Aveva infine su tutta la persona e perfino nella crocchia dei capelli qualcosa di inesprimibile che sembrava una sorta di sfida. E lui la desiderava, soprattutto per il piacere di vincerla e di dominarla. Allora, è un pomeriggio. Il pomeriggio è un'ora particolare nel mondo flaubertiano, tempo particolare nel mondo flaubertiano, perché è il tempo del calore, eh? È il tempo del calore e il tempo del sesso. E in una pagina memorabile e mirabile di Madame Bovary, il primo incontro che fa pensare a cose sessuali è proprio quando lui, il protagonista, Charles, incontra lei, Emma, in un pomeriggio caldo, tutti sono fuori e lei è in cucina e c'è il pranzo che è stato appena consumato, tutto è pulito, è stato lavato, siamo in campagna, c'è l'odore della terra, c'è l'odore dell'estate, c'è il profumo dell'estate e lì lui si sente attratto nel calore, che è sempre complice delle cose del sesso, attratto verso di lei. E qui altra cosa, ma è un pomeriggio, tempo di calore e di sesso, quando lui la vede un pomeriggio, ricordate il pomeriggio è importante, che lei si china, guardate la scena com'è semplice e cruda al tempo stesso, e chinandosi lui si avvicina a lei ed ebbe un gesto eloquente, cioè le tocca le parti posteriori del corpo. Con un gesto di un'eloquenza così poco ambigua che lei si rialza naturalmente, tutta rossa. Non che Rosanette non fosse abituata a carezze di questo genere, ma anche una donna di facili costumi è lei a decidere quando è il momento. E quest'idea di sentirsi, per così dire, trattata da donna oggetto proprio, la turba, la infastidisce, ma quando dico la turba la infastidisce intendo dire sempre qualcosa di superficiale, perché Rosanetta ha emozioni solo superficiali, quindi è soprattutto il suo orgoglio che viene ferito, viene ferito e si mette, siccome lui subito ricomincia, perché il maschio, questo è perfetta questa cosa, il maschio quando ha una foglia, un desiderio sessuale, si comporta in modo animalesco, in modo anche la donna, in certi casi l'ho veduto, ma il maschio sicuramente, cioè si allunga le mani, viene respinto e lui ci riprova immediatamente dopo, no? C'è qualcosa di irrefrenabile, ecco. Io l'ho visto, ripeto, con qualche ragazza che ho conosciuto, ma quello di aperta sofomania, il discorso è a parte. Va sul patologico, ma gli uomini invece no, l'uomo ci prova sempre, è una sorta di imperativo impresso nel suo DNA, quindi le mani vengono respinte, ma è come programmato che le mani vengano respinte, e quindi lui le riallunga. Allora lei scoppia a piangere e dice che è una bella disgraziata, perché insomma la sua vita è una vita non certamente di una persona che ha i lussi, raffinatezze, una persona di uno standard sociale basso, ma questa non è una ragione perché la si disprezzi. Ecco perché il contatto sessuale non voluto è evidentemente sentito dalla donna come una sorta di disprezzo. Ma direi questo dalla donna, perché storicamente le cose vanno in questo modo, ma ci sono uomini che hanno avuto, sono stati oggetto, forse alcuni di quelli qui presenti, oggetto di contatti sessuali non voluti, e l'hanno sentito sicuramente come cosa altamente fastidiosa. Il contatto sessuale non voluto è un oltraggio spaventoso. Quando si parla tanto, detto per incidere, insomma, della terribilità della violenza carnale, dello stupro, delle molestie, anche senza arrivare allo stupro, si parla perché davvero si tratta proprio di un attentato alla persona, insomma. E ci sono anche uomini molestati, come sapete, e forse qualcuno di voi, gli uomini qui presenti, non lo è ancora, ma poi in fondo lo sarà. Le donne hanno sempre dovuto invece subire, sono più attrezzate, diciamo così, a subire questi oltraggi, diciamo così. E allora lei, che è una testolina, non riesce a pensare più di tanto, lei a questo punto pensa che per cercare di sviare lui, l'unica cosa è mettersi a ridere, prenderla sul comico, mettersi a ridere. E lui, che non ha una strategia in contrapposizione a quella del mettersi a ridere, ed è molto ingenuo e molto inesperto, anche lui decide di prenderla sul comico. Ecco, il comico naturalmente è prezioso in un rapporto, la dimensione del comico, ma può essere anche letale, no? Perché spoglia l'eros, nulla uccide, mentre dal punto di vista, e questa è una cosa sottile e delicata su cui vi prego di riflettere, mentre dal punto di vista della gestione complessiva di un rapporto, il senso dell'umorismo è assolutamente prezioso, fondamentale. Senza senso dell'umorismo, cioè, Romeo e Giulietta, no? E vabbè, lì è tutto avvenuto molto rapidamente. Ma se avessero detto a Romeo e Giulietta di continuare il loro rapporto e non e fosse stato precluso ogni senso dell'umorismo, si sarebbero lasciati un giorno. Questa è la mia netta convinzione. Ciò non di meno, il comico può essere distruttivo della dimensione erotica, cercando di capire le due facce del problema. Cioè, se tu fai qualcosa e l'altro ti ride in faccia, tu ti senti smontato. Non posso non citarvi un libro bellissimo, se si trova ancora in Italia, su cui ho fatto una recensione molti, molti, molti anni fa, che si intitola Le Bavard, un libretto di René-Louis de Fauré, era uno scrittore degli anni 30-40, Le Bavard vuol dire il chiacchierone, in cui c'è uno che ha una specie di malattia erotica che consiste nel parlare, e parla per cercare di convincere una donna, e questa lo lascia parlare, lui parla, è una sorta di orgasmo cui tende finché alla fine lei fa una risata spaventosa. È proprio come se allora ogni soddisfazione fosse rimandata. Un libro bellissimo, libretto bellissimo. Ride lui, ride lei, ridono in due. Il riso crea fra un uomo e una donna un'altra condizione, una condizione cosiddetta di amicizia o di cameratismo. Se voi andate qui sulla piazzetta a guardare, potreste, diventando un po' Sherlock Holmes, potreste vedere quali sono i ragazzi, come stanno nei rapporti fra di loro, no? Ecco, e d'altra parte l'università serve anche per sveltirvi la testa, la mia vecchia idea che la testa non serve solo a dividere le orecchie, è fondamentale, no? Uno guarda qui intorno e quelli che sono amici, finti, insomma, basta parlare un momentino e ci si rende conto di come stanno le cose. Alcuni sono amici perché non osano, non possono, uno dei due non può far di più. E l'amicizia però, l'amicizia cameratesca, quella delle pacche sulle spalle, per intenderci, è micidiale, uccide l'eros per sempre. Chi vuole una strada erotica non divenga mai amico. Il passaggio dall'amicizia all'amore è impossibile. A un certo momento lei si rende conto che lui sta abusando di lei. Perché in realtà ogni oggetto d'amore, poi vuole essere l'unico oggetto d'amore per l'amante. E questa idea che lui parli continuamente di Madame Arnoux, e d'altra parte anche Arnoux, quando viene da lei, da Rosanette, gli parla della moglie. Quindi questa gli ha rotto le scatole sostanzialmente. E allora dice: ma vai un po' tu da Madame Arnoux, vattene dalla tua Madame Arnoux. Questa è la tipica frase che tutte le mogli dicono a un certo punto quando subodorano che il marito abbia una madre. La tecnica è, tecnica A, scenata immediata. Tecnica B, faccio la signora, faccio finta di niente, mostro che sono superiore a queste cose. Mai è gonzo il marito, il fidanzato che crede alla buona fede della compagna. Nessuna donna amata è in buona fede, nessuna. Verrà il momento in cui te lo fa pagare con gli interessi usurai. Usurai, perché ti dirà allora vai, tornatene dalle tue. E tu caschi, povero uomo, dalle nuvole, dicendo ma io magari non ho più una. Perché avevi un rapporto, bastardo fottuto, capito? Con il dare la complicità del partner è il più grave errore dell'umanità. Il partner amoroso non è mai tuo amico. Scriverselo a capo del letto. Non è e non sarà mai tuo amico. Fidarsi, come mi ricordo che diceva a un certo punto di cose della sua vita. Io ho due fratelli, uno è un fisico nucleare, ed è uno molto dotato, ma è umanamente, insomma, sempliccione, diciamo così. A un certo punto aveva delle histoire terribili, complesse, eccetera, aveva chiesto la, mi ricordo ancora, la complicità della moglie, ma viene in corso. Nessun partner è complice. Questa è una frase fondamentale, glielo dico a lei, che ormai è donna vissuta, sui 40 sostanzialmente, glielo dico a lei, è nessun partner è mai complice. Allora, lui ne parlava sovente, eccetera, eccetera, lei non lo più, e lui però, ecco il punto, lui gliene conserva ancora, perché... Come funziona la psicologia maschile? La psicologia maschile, diversamente, che qui mirabilmente illustrata, diversamente da quella femminile, funziona così. L'uomo vorrebbe avere tutto. Questo è il punto. Una donna no. Una donna vuole tendenzialmente l'eterno sposo, come vi avevo raccontato, dice Flaubert. Poi lo trova, non lo trova. Se non vede che non c'è, allora si indirizza altrove. L'uomo no, diciamo così, l'adulterio l'ha inventato il maschio, ecco, la donna ha inventato invece i rapporti multipli, nel senso che passa dall'uno all'altro, all'altro. Io conosco ho avuto fior di allievi nella mia lunga carriera, che hanno avuto tutta una serie di uomini, però difficilmente in contemporanea, solo qualcuna, mentre gli uomini in contemporanea, questo è un classico, è un must, quello dell'uomo che ha. Perché qual è la scusa che l'uomo dice a se stesso? Dice che si tratta di cose diverse. Dice, ma con questa è una cosa, ma con quella è un'altra, cosa che una donna non direbbe mai. Ma quando si rende conto che c'è un problema in questo senso, una donna manda in crisi il rapporto. Infatti, come sapete, statisticamente, insomma, chi manda in crisi il rapporto è sempre la donna, non è l'uomo. Questo libro è anche interessante proprio come spaccato, direi, di psicologia sociale, per come fa vedere come funzionava la psicologia dell'uomo e della donna a metà dell'Ottocento, in Francia, cioè nel paese più colto che c'era in Europa, nel paese guida. Bene, allora, il fatto che sia stata offesa la regina, cioè la sua regina, Madame Margot, Frédéric, non lo tolse. Gliene conserva rancore. E il rancore nelle cose d'amore funziona così, che diventa una sorta di leva per far scardinare l'intero edificio. Ecco perché i litigi, contrariamente a quello che credono gli oipolloi, le masse, i litigi nei fatti amorosi non servono affatto. O meglio, e dire, ma noi litighiamo per scopiare insieme bene. No, non va così. I litigi nelle cose d'amore lasciano sempre un qualche retrogusto di odio. Apparentemente tutto è finito. Apparentemente. Ma poi, sia l'uomo che la donna, torna. E come dico poi, è il momento in cui ci sono questi interessi doppi, tripli, quadrupli che arrivano, eccetera. E quindi dopo la parola rancune, qui vedete che Flaubert dice che lui cominciava d'altra parte a essersi seccato di lei. Ma guardate che perché questa osservazione che Flaubert fa, cominciava a sentirsi seccato, irritato di lei, la fa dopo che ha detto del rancore. Quindi è proprio il rancore che ti fa sentire seccato su cose che prima invece non ti seccavano. Bellissimo. Cominciamo del resto a irritarlo fortemente. Qualche volta, posando, cioè fingendo di essere una donna esperta, è già perché in realtà noi siamo sempre nella vita costretti, come tutti sappiamo, a rivestire dei ruoli, no? Voi avete un ruolo in casa, nel rapporto con i genitori, con i fratelli, con gli amici, con il fidanzato, la fidanzata. E un ruolo qui, naturalmente, un ruolo qui, no? Adesso mi colpiva il fatto che due ragazzi che sono stati rimproverati per il tono di voce alto e ovviamente scortese, però loro erano abituati a parlare in questo modo, cioè come se voi siete intelligenti e capite, quindi non si erano, tra virgolette, capite cosa voglio dire, civilizzati sufficientemente. La civiltà impone di essere educati, di stare alle leggi del posto in cui stai. Se tu vai in chiesa, mettiamo, non puoi metterti a parlare ad alta voce, insomma, no? Perché disturbi gli altri, eccetera. Quindi tutti abbiamo un ruolo. Anch'io non ho detto un ruolo, questo va da sé. Ecco, non penserete che io in casa, davanti alla scrivania, abbia un microfono in mano, per esempio. Non penserete che io mi parli allo specchio la mattina. Quando vado a farmi la barba c'è un microfono mobile e mi parlo con il microfono mobile, no? Oppure se vado a pisciare, piscio con il microfono. Ho preso l'idea? Bella questa, è stata cruda ma ben detta. Cosa va ben detta? Quindi... sono i tipi che mostrano un po' snob, che mostrano di non credere a nulla, no? Che mostrano di essere al di là di tutto, eccetera. Ecco, è una parte, una maschera che uno assume, ma ogni maschera può diventare odiosa, può diventare manieristica, per cui se tu sei troppo scettico e a un certo punto diventi una parodia di te stesso. È chiaro? Facciamo un esempio. È mancato un grande attore, che fa parte proprio della mia generazione, perché non ho quegli anni, quindi non mi attribuite quell'età, ma lo vedevo da bambino. Allora tutti l'avete presente, alto, biondo, eccetera, eccetera, e tutti hanno parlato della sua eleganza, eleganza, improvvisamente... Mi sono reso conto di questo, proprio oggi guardando i giornali ho detto, ma questa è uno stereotipo, cioè lui recitava questa parte qui, no? Ma l'umanità di una persona è fuori o dentro lo stereotipo? Capite? Più è fuori dallo stereotipo, più la persona è effettivamente ricca, più è dentro. Ci sono alcuni comici di bassa lega, presentatori comici di bassa lega, pessimi, orrendi, pensate dalle stelle Flaubert alle stalle, tipo Paolo Bonoli. Boys, per esempio, delle merdine di questo genere qua, che fanno, sono tutte dentro la parte e tutti sanno i giochettini che faranno. Che cosa succede a una persona insicura e incerta nella vita? Spero che riusciate a capire il filo del discorso. Si butta nello stereotipo, si crea un personaggio, si butta nello stereotipo. Si butta nello stereotipo perché è la via più facile. Quindi lei, Rosanette, si butta nello stereotipo per l'appunto e fa appunto, come si diceva una volta, la scettica blu, fa la scettica. E di tanto in tanto però, siccome è fine mostrare che una donna abbia delle sue passioni, allora dice, buono, è buono, sapete, insomma, c'è un film immortale che in una sua parte, che mi pare, se non ricordo male, Harry ti presento Sally. È così? Sì, sì. O Sally? No, Harry ti presento Sally. Che è quella dell'orgasmo. Sì. Che è quella della simulazione dell'orgasmo. Ecco, ecco, gli occhi. E qui lei, Rosanette, a un certo punto ritiene che sia fine dire ma sì, è buono, buono, è bello, è bello. Ci sono delle persone che parlano in questo modo. Io ne ho conosciute, persone dell'alta società, che parlavano in questo modo sdilinguito e stereotipato. Però Flaubert, implacabile, dice ma allora dov'è Rosanette? È in questi stereotipi o è fuori? E conclude, era impossibile conoscere. Era impossibile conoscerla, non si sapeva se amava Arnoux, sembrava gelosa di lui, non si sapeva che la sua amica Vatnas, che era una brutta, non si sapeva se era amica o no. Questo è tipico delle donne, che di tanto in tanto si esprimono. Nel mondo dello spettacolo tutto questo è estremamente accentuato, quando tu non capisci se la persona è amica o no, perché le dicono benissimo fino a un minuto prima, poi dicono delle cose tremende. Chiunque abbia frequentato, come ho frequentato io, il mondo del teatro, il mondo dello spettacolo, si rende conto di questo. Dicono, ah, il mio compagno di lavoro è assolutamente meraviglioso, fantastico, tu ci credi? E poi per dietro gli dicono queste cose. Di chi è tipico questo parlare iperbolico e scettico? Di chi appunto non ha una personalità e si rivolge solo a stereotipi. Però paradossalmente questa personcina inesistente, questa è la cosa terribile che ho intenzione di dirvi, questa personcina inesistente è degna compagna di Frédéric Moreau. Perché se è inesistente lei, è inesistente anche lui. Anche lui è povero, anche lui non sa darsi. E poi ci sono nella nostra persona delle cose che parlano da sole. È vero? Modi di camminare, di vestire, no? Aggiungo una cosa importante, che l'amore consiste nello scoprire le peculiarità di ognuno, questi modi. Una signora che io amo molto ha un modo di camminare curioso che mi ricorda un amico di mio padre. E quando è curioso perché cammina un po' così, un po'. Naturalmente non posso andare più in dettagli perché poi si potrebbe sapere chi è. Camminando un po' così, io gliel'ho detto naturalmente molte volte, ho pensato, ma insomma è incredibile che mi ricordi questo amico di mio padre, è morto da ormai 250 anni, così, eccetera. E poi pensavo, ma questo amico di mio padre mi faceva un po' orrore, era un uomo molto intelligente, non avrei mai avuto dei sentimenti sessuali nei suoi confronti. Non sembrava terribile l'idea. Una cosa tremenda. Buon'anima di mia madre diceva che somigliava a un supplì. Poi mi sono trovato di fronte a questo stesso passo e l'ho guardato in modo differente. L'amore vuol dire, scrivere, vuol dire saper valorizzare le peculiarità della persona, anche se sembrano inizialmente strane. E queste peculiarità sono quelle attraverso cui noi esprimiamo la nostra personalità. Allora, lei ha i capelli a crocchia, su. A crocchia. No, non lei, non lei. Ha i capelli a crocchia, ecco. Questi capelli a crocchia, capite che rappresenta... Quando è che Madonna, quando è che una ragazza si mette i capelli a crocchia? Quando è che venendo all'università si mette i capelli a crocchia? Io so tutto sull'argomento. Potrei fare un corso sulle ragazze che vengono all'università e sulle capigliature in particolare. So tutto, se i capelli erano sporchi, allora si mettono il cerchietto dietro a crocchio, oppure c'è un cerchietto infantile così, no? Poi naturalmente quando voglio fare le fiche, allora c'è il parrucchiere con i capelli. Così, però naturalmente quelli reggono poco, l'estate in particolare. Ma i capelli a crocchia al mio su danno, come dire, una sfida del corpo. E lei, infatti, lei ha questo capello che le retroussement de son chignon, il rialzarsi del chignon di dietro, va bene? Il rialzarsi. E quando una donna esprime, questa è la psicologia sessuale maschile, attenzione, quando una donna esprime un desiderio di affrancarsi da ogni selvaggio, e allora il desiderio sessuale maschile si scatena per cercare di vincerla, di dominarla. Quindi quel chignon in su è quello che desta il desiderio di lui. Adesso facciamo l'ora di Mallarmé. Sappiate che lunedì non c'è lezione perché c'è il consiglio di facoltà. Quindi,